Noi tra le iniziative contro la guerra abbiamo preparato due petizioni e anzi ne approfitto per dire che la raccolta firme partirà venerdì 27 con un primo banchetto al Pratello. Ecco, con una petizione si chiede al Parlamento italiano di tagliare le spese militari e dedicare piuttosto le risorse allo Stato sociale, ad operarsi per la pace, perché è noto a tutti che il governo ha annunciato un aumento delle spese militari consistente, si passerà dai 25 a 38 miliardi di euro all'anno, non è ancora chiaro se questa cifra sarà spalmata negli anni o si tratterà di un aumento immediato. Per contro vengono tagliati sempre più i servizi fondamentali, ad esempio si prevedono ancora tagli alla sanità, noi chiediamo che queste risorse siano dedicate allo Stato sociale e non all'acquisto di armi. Ho pensato di invitare il sindaco Lepore, la vice sindaca Clenzi, a firmare la nostra petizione anche alla luce delle loro dichiarazioni, perché il sindaco Lepore ha recentemente affermato che non si possono sottrarre risorse alla sanità, l'abbiamo letto sulla stampa locale, diceva esattamente che non possiamo stare a guardare mentre lo Stato sociale rischia di essere fatto a pezzi e che il patto con i cittadini, diceva, ha detto Lepore, viene prima del patto con l'Europa e con la NATO. E anche la vice sindaca Clenzi, prima ancora di questa frase del sindaco, ha dichiarato che l'enorme spesa militare dovrebbe essere dirottata su altre voci, dalla salute alla scuola, dal welfare alla transizione ecologica. Diciamo che sono entrambi perfettamente in linea con la nostra richiesta, per cui io mi aspetto che firmino la nostra petizione. Questa è la prima. La seconda petizione si chiede allo Stato italiano, e di queste petizioni ce ne sono tante in giro, visto, si chiede la ratifica del trattato ONU per la proibizione delle armi nucleari, perché riteniamo che la pace possa essere conseguita solo attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale. E ho chiesto al sindaco e alla vice sindaca di firmare anche questa petizione, che visto che auspicano che sia raggiunta la pace, quindi diciamo che sono in linea anche con questa seconda petizione. Io spero davvero che sia il sindaco Lepore che la vice sindaca Clenzi vogliano contribuire con la loro firma a dare forza alle nostre petizioni, che accolgono la preoccupazione delle italiane e degli italiani per il conflitto in corso, come dimostrano gli ultimi sondaggi. La preoccupazione delle italiane e degli italiani cresce, la maggior parte ritiene che l'Europa debba rivendicare una maggiore autonomia rispetto agli Stati Uniti, si dichiara contraria all'invio delle armi all'Ucraina e ha la consapevolezza che questa guerra andrà a incidere sulla nostra situazione economica, già fortemente compromessa dalla crisi pandemica. Quindi io mi aspetto che il sindaco e la vice sindaca mi chiamino, io gli porto la petizione e così danno forza a queste nostre iniziative che sono per il bene delle cittadine e dei cittadini. Tu dicevi prima il 27 comincerà la raccolta di firme e quindi ti chiedo appunto un po' più nel dettaglio di ricordare dove? Al Pratello, e avremo un banchetto, anzi forse più di uno, lo stiamo organizzando, però sarà pubblicizzato ovviamente sui canali social, e avremo questi banchetti al Pratello cominceremo dalle 17, intorno alle 17:30, quindi chi vuole firmare ci può raggiungere al Pratello venerdì 27 maggio.